Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi accolgo con una voce notissima. Laudato si, mi signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l'esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato si, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. L'avrete certo riconosciuto, era Tony Servillo che leggeva l'incipit dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, in un audiolibro che propone la lettura integrale di Servillo del testo papale, con una guida all'ascolto di padre Antonio Spadaro, che è uno dei più fedeli esegeti del pensiero del Papa. Questo libro è pubblicato da Luca Sossella Editore, la lettura dura 5 ore e costa 9,90 euro. Questo testo di Francesco ha reso ancora più popolare l'autore, appunto Papa Francesco, un personaggio carissimo a molti, ma capace anche di far discutere, di suscitare polemiche e sconcerto. E di questo Papa ci viene offerto un ritratto tutt'altro che agiografico nel libro di uno dei maggiori vaticanisti, quello del TG1, Aldo Maria Valli. Il libro si intitola 266, Jorge Maria Bergoglio Franciscus PP, è pubblicato da Libri Libri, 210 pagine, 16 euro. Il titolo naturalmente si riferisce all'ordine, al numero che questo Papa occupa nella serie dei pontefici, il 266esimo Papa. E il libro inizia con un interrogativo esplosivo. Ma il Papa è cattolico? La domanda è legittima, visto che lo stesso Francesco ha detto, ricorda l'autore, io credo in Dio, non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio. Parola di Papa Francesco. Allora, Francesco è cattolico? Se l'ho chiesto per esempio anche un grande giornale come Newsweek in una famosa copertina di circa un anno fa. E naturalmente Valli pone il problema in modo critico per sottolineare, come scrive, che c'è un disagio rispetto a molte posizioni assunte da questo Papa, e si tratta solo di alcuni casi, e fra i molti che si potrebbero citare e che Valli cita. Un disagio, aggiunge, ulteriormente lievitato dopo l'uscita di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica post-sinodale sull'amore nella famiglia. È pur abituato, aggiunge, riferendosi alle proprie esperienze professionali, il giornalista, pur abituato alle discussioni e alle polemiche sull'operato dei papi, me ne occupo da più di 20 anni, devo ammettere di non aver mai assistito a un confronto così aspro. In Italia è un po' sotto traccia, ma è in corso soprattutto nel web, e al centro della discussione c'è lui, Francesco. Per esempio, a proposito del testo con cui abbiamo iniziato questa puntata, l'enciclica Laudato Si, lo stesso Valli scrive che il grande consenso di cui gode il Papa non mi sembra un buon segno. Prendiamo il caso dell'enciclica sulla tutela del creato, la Laudato Si. A parte il fatto che i cambiamenti climatici non mi sembrano un tema da enciclica papale, sembra quasi di leggere un documento di Greenpeace. Nessuno mette in discussione che il cristiano cattolico debba prendersi cura del creato, ci mancherebbe. Ma dal Papa, dice Valli, mi sarei aspettato un'analisi alternativa rispetto a quella corrente. Allora sentiamo l'opinione dell'autore, che non nasconde anche il disagio che ho dovuto vincere per scrivere questo libro. Buonasera ad Aldo Maria Valli. Buonasera. Aldo Maria Valli, al centro dell'insegnamento di Francesco c'è la misericordia, e proprio la misericordia ha portato il Papa a definire la Chiesa un ospedale da campo, un'espressione che ha avuto molto successo, ha suscitato un grande entusiasmo, ma lei non è, lei è abbastanza scettico sull'entusiasmo suscitato da queste parole del Papa. Perché? Devo dire che in un primo momento anch'io sono stato molto contento, colpito in senso positivo da questa espressione, dall'atteggiamento del Papa. Poi, strada facendo, sono sorte molte perplessità, maturate soprattutto dopo Amoris Laetitia, il documento che fa da sintesi al Sinodo dei Vescovi sulla pastorale per la famiglia, che ho trovato molto ambiguo, ambivalente, interpretabile in modi diversi, forse anche un po' un tentativo furbo di tenere assieme cose che assieme non possono stare. E da qui è nata una riflessione che mi porta a dire che anche in un'espressione apparentemente molto bella come ospedale da campo c'è però una dose di ambiguità e di indeterminatezza. Curare chi, perché cosa, per arrivare a dove? Soltanto a un benessere psicofisico, come sembra che chieda la società nostra contemporanea, o la salvezza dell'anima, che tutto sommato dovrebbe stare a cuore alla Chiesa. Ma allora, se in ballo c'è la salvezza dell'anima, che fine fa tutto il problema del giudizio divino, del giudizio di Dio, che stando alla scrittura comunque va sempre di pari passo con la verità? E dunque da qui tante tante domande, è soprattutto un libro di domande. Infatti lei ricorda un'altra frase che ha avuto molto successo di Papa Francesco: l'ingerenza spirituale nella vita personale non è possibile, che è sembrata una frase che rappresenti un cedimento all'individualismo, che apre le porte a quel relativismo contro il quale si sono battuti prima San Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI. E quindi, insomma, c'è una frattura così netta e decisa con i suoi due predecessori? Mi sembra che soprattutto in Amoris Laetitia sì, questa frattura emerga, e che ci sia una spinta, un cedimento direi, non so quanto di cui il Papa sia consapevole, ma che mi sembra abbastanza chiaro, verso il soggettivismo. Alla fine, quando il Papa dice procedere caso per caso attraverso il discernimento, anche questa espressione è diventata famosa, ma discernimento per arrivare a cosa? Che cosa significa discernere? E alla fine, allora, cosa conta? Il modo in cui noi viviamo soggettivamente una esperienza, o decidere che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è peccato, che cosa non lo è? Di nuovo vedo rischi di indeterminatezza. E infatti lei si fa una domanda: da una spiritualità fondata sui diritti di Dio e i doveri dell'uomo, siamo forse una spiritualità centrata sui doveri di Dio e i diritti dell'uomo? Lei che risposta si dà? Che si sta scivolando verso questo, temo, e che se questo avviene anche la Chiesa, che vedo come l'ultimo baluardo contro il relativismo imperante, rischia di cedere, di franare, e se questo avviene davvero allora siamo in balia completamente dell'incertezza, e tutto questo ha conseguenze sull'individuo ma anche sulla società. Nel suo libro lei insiste sulla capacità molto notevole da parte del pontefice di utilizzare i media. Questa capacità non rischia forse di tradirlo? Lei scrive: Francesco è ceduto al desiderio di piacere. Io credo di sì. Ecco, qualcuno dirà: ma tu sei ingeneroso verso il Papa. Io ammiro la sua semplicità, la sua schiettezza, il suo modo di porgersi, che riesce ad arrivare a tanti, però ecco, in questo c'è anche un rischio. Quando il Papa parla così frequentemente, anche attraverso le interviste non preparate forse adeguatamente, il rischio della scivolata c'è sempre, e con Francesco abbiamo visto che tante volte è successo. Insomma, il ruolo del successore di Pietro credo che esiga anche un po' più di prudenza, e oserei dire di senso della sacralità di questa figura, che va bene umanizzare il Papa, però insomma bisogna stare attenti a quel che si dice. E anche nel libro lei riprende un tema al quale ha accennato adesso, cioè l'Amoris Laetitia. Che cosa rappresenta? Quali sono i rischi che questo documento può rappresentare? Ma io credo proprio, ecco, la caduta nel soggettivismo, cioè giustificare tutto. Alla fine tutto va bene purché in coscienza sia vissuto sinceramente, spontaneamente. Ecco, vedo un cedimento a questo spontaneismo che è un po' la cifra di noi postmoderni, no? Se un'esperienza è vissuta in sincerità va comunque bene, ma non è così. Per la Chiesa perlomeno non è mai stato così. Esiste un bene oggettivo e va rispettato, e la dottrina serve a ricordarcelo. Un'altra questione sulla quale il Papa Francesco ha assunto delle posizioni molto discusse e discutibili sono quelle sull'Islam. Lei scrive: l'Islam ha un problema con la violenza di matrice religiosa, come aveva segnalato Benedetto XVI a Ratisbona nel 2006. Negarlo vuol dire prima di tutto non aiutare l'Islam a fare i conti con se stesso. Evidentemente Francesco non la pensa così. Credo proprio di no, ma questo è un errore, perché è un errore di principio e di conoscenza prima di tutto. Nel Corano purtroppo la spinta verso la violenza c'è, è evidente. Io credo che ci sia un po' in tutte le religioni questo rischio di cedere alla utilizzazione della religione a scopi ideologici politici anche attraverso la violenza, ma nell'Islam questo rischio è particolarmente accentuato proprio in base a ciò che possiamo leggere nel Corano. È lì la radice del problema. Credo che soprattutto la società, la cultura musulmana debba decidersi a fare i conti con questo problema. E il Papa, con il suo buonismo, con il suo dire che questo problema non c'è, sicuramente non aiuta un dialogo sincero e costruttivo. E infatti lei conclude il suo libro con una domanda drammatica: se la Chiesa non giudica, non distingue, non valuta, qual è la sua funzione? Aggiunge anche che la Chiesa con Francesco vuole consolare e accompagnare, ma, scrive lei, Aldo Maria Valli, può esserci accompagnamento senza giudizio? Io credo proprio di no, ecco, di nuovo, accompagnamento è parola troppo superficiale, troppo generica. Dobbiamo dire verso che cosa vogliamo andare e come ci vogliamo andare. Allora qui trovo che l'insegnamento di Francesco possa colpire chi è lontano dalla Chiesa, ma alla fine si cade di nuovo nel soggettivismo, e chi invece nella Chiesa c'è e cerca di essere fedele alla dottrina si trova sconcertato. Secondo lei cosa c'è di autenticamente gesuita in Francesco? Ma c'è molto, soprattutto, ecco, l'attenzione al mondo, che è tipico del gesuita, che sicuramente non si trincera ma va alla ricerca della verità ovunque nel mondo, così come il mondo è. Però Francesco è anche un gesuita atipico, che poco sistematico. Il gesuita è uno studioso, è uno che non si limita all'osservazione ma vuole andare in profondità. Invece in Francesco noto una certa approssimazione sotto tanti profili. E allora qual è il significato che può assumere l'opposizione a Francesco? Si tratta solo di reazione conservatrice, di conservazione dei privilegi, come dice in fondo lo stesso Francesco, o c'è qualcos'altro di più profondo in questa opposizione, anche dentro la Chiesa? C'è, credo, qualcosa di molto più profondo, che è il timore appunto che anche il depositum fidei, con tutto ciò che comporta, si sciolga in questa melassa indistinta della postmodernità, in cui non è più possibile riconoscere il bene dal male, il bello dal brutto, il buono dal cattivo, e l'uomo è lasciato in balia di se stesso. E questa credo che sia la preoccupazione di chi, non direi fa opposizione, ma cerca di ricordare alcuni problemi al Papa. Purtroppo però bisogna dire che il Papa non risponde. E secondo lei il gregge come sta rispondendo? Partecipa a questo entusiasmo per Francesco o sente questa, non diciamo mancanza di guida, però questa guida diversa? Io vedo nelle comunità, nelle parrocchie, da un lato da parte delle persone meno consapevoli, così un accontentarsi di stare alla superficie di queste parole che il Papa pronuncia senza interrogarsi troppo, dall'altro però molto sconcerto, un grande interrogarsi su dove sta andando la Chiesa in questo modo. E è un problema che esiste non solo in Italia ma in tutto il mondo. Negli Stati Uniti ad esempio c'è un ampio dibattito in corso che sfocia soprattutto, direi, nel web, in un dibattito molto accalorato, a volte anche molto forte dai toni che vengono usati appunto nei social. Fatica invece a sfociare più sulla carta stampata e nei media tradizionali. Forse conferma il fatto che la carta stampata ha fatto buona parte del suo tempo. Forse anche questo, e forse anche la carta stampata, essendo un mezzo che non consente un ritorno, un dibattito immediato, fatica di più a scendere su questo terreno. Grazie ad Aldo Maria Valli, autore di 266, Jorge Maria Bergoglio, Franciscus Pipì. Buona serata a voi, grazie e buona lettura. E chi voglia abbeverarsi alle fonti potrà documentarsi sui discorsi tenuti dall'allora cardinale Bergoglio, quando era arcivescovo di Buenos Aires, nel libro Nei tuoi occhi la mia parola, completato anch'esso da una conversazione con Antonio Spadaro, pubblicato da Rizzoli, 1004 pagine, 26 euro. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo aver parlato del Papa, parliamo di un antipapa, uno che i papi non li amava per niente, non amava certamente anche la Chiesa Cattolica, e uno dei padri del pensiero moderno e del pensiero laico, cioè Voltaire, al quale dedica il suo ultimo libro uno dei più celebri saggisti contemporanei, Fernando Savater, l'intellettuale spagnolo, autore di libri fortunatissimi a partire da Etica per un figlio. Adesso ha pubblicato Voltaire contro i fanatici, pubblicato dalla Terza, tradotto da Andrea De Benedetti, 134 pagine, 16 euro. Qui ci dà una rapida ed efficace presentazione del pensiero di Voltaire, che ci viene introdotto appunto come il maestro della tolleranza, non a caso riscoperto ogni qualvolta l'intolleranza ci colpisce e ci ferisce, per esempio dopo l'attentato che avvenne proprio 2 anni fa a Charlie Hebdo. Scrive infatti l'autore: il fanatismo ha la capacità di rendere arido il terreno potenzialmente fecondo delle creazioni sociali. Al giorno d'oggi spicca il caso delle teocrazie islamiche, che riducono i paesi che ne sono vittime a una condizione di nanismo politico, estetico, scientifico e sociale. Non si tratta certo, aggiunge Savater, di islamofobia, alibi che alcuni accampano in maniera non sempre disinteressata per difendersi da ragionamenti ben strutturati e difficile da confutare. Voltaire fu il primo, scrive Savater, ad accorgersi con chiarezza della forza rigeneratrice che le idee possono esercitare sull'opaca e logora struttura della società. Ma questo potere filosofico deve essere messo in movimento, aggiunge Savater, sottratto ai libri accademici, portato in piazza, usato come ariete e come bandiera. In questo senso Voltaire fu certamente il primo intellettuale moderno, capace appunto di dare molta voce alle proprie idee. E del suo impegno Savater ci dà qui una documentazione importante, con una breve ma succosa antologia a voci alfabetizzate da Abate Virtù, per concludere il libro con 4 brevi esercizi volterriani ispirati proprio all'attentato al settimanale francese, tra i quali uno ispirato alle parole che crearono non poco scompiglio e sbigottimento, le parole proprio di Papa Francesco, che ricorderete in quell'occasione disse: se qualcuno offende mia madre gli do un pugno. E a quelle parole del Papa Savater così ribatte: una cosa è l'insulto diretto e personale, che di solito include riferimenti ingiuriosi ai genitori della vittima e dinanzi al quale ciascuno reagisce come la sua educazione e le circostanze gli consigliano. Un'altra cosa è invece l'offesa astratta verso quella che alcuni considerano la propria famiglia soprannaturale. In questo secondo caso, la convivenza democratica reclama sportività o rassegnazione civica, non cazzotti. Attenzione a cosa predichi, caro Francesco, che chi la fa l'aspetti. Ma di Voltaire si può parlare male? Ci provarono anche i suoi tempi. Un grande oppositore contemporaneo di Voltaire fu uno straordinario matematico, soprannominato addirittura il Mozart della matematica, Leonard Euler, o Eulero all'italiana, vissuto tra il 1707 e il 1783, di Basilea, figlio di un pastore protestante ed egli stesso cristiano devotissimo. Un protagonista della scienza e del pensiero dei suoi tempi, un autore riconosciuto al quale Voltaire non andava giù. Del resto anche il filosofo francese lo tormentava e lo metteva alla berlina proprio perché ne condannava e ne deplorava l'eccesso di bigottismo e di fanatismo. Eulero non si lasciò intimidire e si scagliò contro la fazione dei libertini e dileggiatori della rivelazione, come li chiamò egli stesso, non accettandone la definizione che se ne davano di razionalisti. Non accettava questa definizione perché, secondo Eulero, questi illuministi vogliono bandire dal mondo l'esistenza degli spiriti, cioè degli esseri intelligenti e ragionevoli. Questo scintillante duello intellettuale, ricostruito da Francesco Agnoli nel libro Leonardo Eulero, il matematico dell'età illuminista, un grande scienziato contro Voltaire e i filosofi materialisti, è pubblicato da Cantagalli, 94 pagine, 8 euro, e il volume interessante anche per il riferimento alle polemiche in Italia dell'epoca sul rapporto tra religione e scienza. E infatti c'è qui un testo, troveremo, dello stesso Eulero tradotto in italiano e diretto a un abate di Pavia, dove appunto Eulero smonta le obiezioni dei liberi pensatori e degli obiettori alla divina rivelazione, scrivendo: se avessero costoro un poco di sincerità e di amore del vero, facilissimo riuscirebbe a rimuoverli dalle loro illusioni, il che nell'ordinaria loro ostinazione è affatto impossibile. Più recentemente ha avanzato delle obiezioni a Voltaire un gesuita, Silvano Fausti, che è morto nel 2015, nel libro Lettera a Voltaire, contrappunti sulla libertà. e pubblicato da Ancora, 112 pagine, 14 euro. Anche questo è un libro scritto per reazione all'attentato di Charlie Hebdo ed è un libro che l'autore non fece in tempo a vedere, dedicato appunto al tema della libertà, scritto sotto forma di lettere a Voltaire, ritmate in movimenti musicali che si rifanno a tre celebri sinfonie di Beethoven, la quinta, la sesta e la nona. Naturalmente l'argomento la libertà è di comune interesse e farne la storia significa collocare Voltaire come iniziatore di una nuova epoca che segna il trionfo della luce, della libertà, della dea ragione. Il gesuita qui si rivolge al filosofo del Settecento prendendo le parti del suo di Voltaire, antico professore di filosofia e di retorica, e gli rimprovera sostanzialmente un difetto che così descrive. Mi spiace di non averti insegnato bene le virtù cardinali dalle quali fiorisce la tolleranza. Tu non agivi in buona fede perché non sei stupido, e neppure in malafede perché non sei cattivo. Ti usciva spontaneo essere scanzonato, cosa buona fino a 30 anni, dopo i 40 segno di immaturità, dopo i 50 di immaturabilità, poi si irrancidisce, marcisce e rinsecchisce. E il libro si conclude sottolineando che libertà senza discernimento e responsabilità non può spiccare il volo, è uccello senza ali, anzi rettile strisciante che uccide fraternità e parità. E buonanotte a te, Voltaire, e a tutti, anche ai clericali, laicisti, luministi o meno. Un altro prete autorevole, il preside della Facoltà Teologica d'Italia Settentrionale, Pierangelo Sequeri, interviene sul tema della libertà e sul clima intellettuale della nostra epoca nel libro Contro gli idoli postmoderni, pubblicato dall'Indau, 98 pagine, 12 euro. La società dei consumi dello spettacolo, ci dice Sequeri, non è sicura garanzia di difesa della libertà. L'egualitarismo, scrive il sacerdote, assicurato burocraticamente la libertà illusoria degli accessi, è l'ultimo capolavoro del dominio. Soltanto uno spirito vigile e acuto riesce a cogliere l'abissale differenza tra libertà di mercato e libertà di pensiero. E dinanzi ai mali della società contemporanea, naturalmente individuare i rimedi è difficile anche per la dominante cappa di conformismo. E allora Sequeri cerca di identificare quali sono i quattro idoli postmoderni e li classifica in queste quattro voci: i giovani, la crescita, la comunicazione e la secolarizzazione. I giovani, che rappresentano l'idolo dell'adolescenza interminabile, che si nutre di un prodotto culturale recente, scrive l'autore, l'esistenza separata di un mondo giovanile con logiche proprie, desideri propri, organizzazione propria, responsabilità propria, con la conseguenza sui vecchi dell'incorporazione di un'adolescenza infinita, scarso interesse per il lavoro della generazione, ricerca di complicità nel godimento, ma al tempo stesso difesa corporativa del potere e di tutti i suoi accessi. Poi c'è la crescita, che diventa da esigenza mito, una potenza infinita che rappresenta il consumo di senso. Poi la comunicazione, che si trasforma nel primato del mezzo con cui comunichiamo, spesso senza avere alcunché da dire, e così si è creato un meccanismo perverso. L'interesse del mezzo, scrive Sequeri, con l'alibi della sua astuta dissimulazione, ha enormemente sviluppato la sua sovranità sui contenuti, da mediatore a sensale con diritto di intermediazione, da sensale a proprietario e da proprietario a produttore e venditore in proprio della comunicazione. Questo sviluppo l'ha potentemente proiettato dalla condizione di strumento regolato al rango di soggetto regolativo. E infine la secolarizzazione, che da slancio di emancipazione dell'umanesimo civile e della tutela ecclesiastica, scrive Sequeri, con effetti certamente epocali, da accelerazione dei progressi della scienza all'affermarsi della democrazia politica, si è trasformato in puntiglioso progetto di superamento della religione, eredità di una visione arcaica del mondo, disciplina incompatibile con l'umanesimo della ragione. Insomma, dinanzi al buco nero dell'umanesimo occidentale, così scrive l'autore, si pone il problema dell'umanesimo etico come ricomposizione del legame sociale al quale il cristianesimo, conclude l'autore, può offrire una prospettiva di speranza. Voltaire troviamo nella serie di ritratti dei grandi del pensiero filosofico, da Aristotele fino a Peter Strawson, che ci presenta in termini molto accattivanti il filosofo di Messina Pietro Emanuele nel libro Filosofi. La filosofia attraverso le prime righe dei suoi capolavori, pubblicato da Salani, 284 pagine, 13,90 euro, prendendo appunto spunto dalle prime righe di un'opera dei filosofi esaminati, Emanuele ci dà un quadro sintetico ed efficace del loro pensiero. Scrive infatti l'autore che i grandi interrogativi della filosofia occidentale sono spesso racchiusi nelle prime righe di un'opera, e fa l'esempio del discorso sul metodo di Cartesio, il contratto sociale di Rousseau o dell'introduzione alla metafisica di Heidegger. Per la cronaca, per Voltaire si parte da un famoso interrogativo con cui quel filosofo apre i filosofi ignoranti. Scrive infatti Voltaire in quelle righe: chi sei, da dove vieni, che fai, che diverrai? Sono domande che vanno poste a tutti gli esseri dell'universo, a cui però nessuno risponde. Essi sanno ancora meno di me che cosa sono, perché sono e che cosa divengono. Vi segnalo poi altri tre titoli di interesse filosofico, ma rivolti a tutti. Il primo è una nuova presentazione, La storia della filosofia, di Pietro Di Giovanni, che insegna filosofia all'Università di Palermo, La storia della filosofia nell'età nuova, e questo volume comprende dal terzo al XIII secolo, 446 pagine, 30 euro, pubblicato da Franco Angeli, è un'opera che si sforza di presentare la filosofia sulla base del metodo storico. Poi di Gian Cristiano Desiderio, La verità, forse, piccola enciclopedia del sapere filosofico, dai greci allo storicismo, e pubblicato da Liberi Libri, 264 pagine, 16 euro. Qui troviamo alcuni grandi temi invece dell'indagine filosofica, al centro dei quali c'è soprattutto la ricerca della verità colta attraverso il pensiero dei grandi filosofi. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.